no, mio ben, che non sono sì crudele, rasserenati pur, ecco il tuo conte, tutto amor, tutto fe. Ma perché grato deludermi così? Perché spietato il mio destino. Dunque se mami, dunque se mio tu sei, dammi la mano. Eccola, oh mio tesoro. E piano piano. Cosa si fa, signori? Un be meschino, più non mi ricordavo della porta. E così, che facciam? Dove l'ardore? Signora, perché in petto la fede ch'io vi servo, il mio dovere, non potendo parlar, meglio è tacere. Ma ingrato, parla almeno, dove vai? Anche per questa volta fatta sai. Il diavolo è venuto in questo giorno ad alloggiare in casa. Dorina, che fai qui? Non vedi? Porta lui. La padrona dov'è? Anche Leona. Col conte l'ha gridato e per far pace disse che andar lo faccia nella camera scura ad aspettare. Che assai con lui le preme di parlare. Ma bada che quel vecchio maledetto non venisse a sapere quanto t'ho detto. Non dubitar. Ma tu non ti ricordi quanto questa mattina mi dicessi? Non parli più di maritarti, amico. Io maritarmi? Il ciel men guardi pure. Non te ne parto un fico. Non ti prendo se vivi per me